Ed eccomi qui anche oggi venerdì 15 marzo 15:17, siete rigorosamente quindi in diretta su CRM più Radio all'interno di Semplicemente Insieme, come dice appunto la nostra sigla, con Jerry. Oggi sono da sola, Giuseppe mi ha abbandonato, però sono sicura che mi sta seguendo, quindi lo saluto perché poi con lui naturalmente ci ritroveremo lunedì pomeriggio, sempre a partire dalle 15, e poi anche perché avremo anche un ospite, il fan numero 5000, quindi trascorrerà il nostro Vincenzo, che trascorrerà il pomeriggio insieme a noi all'interno quindi di CRM Happy Radio. E allora vi ricordo allora subito i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, le vostre canzoni preferite, o anche perché no, come dico sempre al solito, anche per un semplice saluto. Il 335-56-37251 e ancora lo 0921-92-3292. Vi ricordo che potete seguirmi in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmhappyradio.it, o ancora sul nostro portale Facebook. E se non siete ancora tra i nostri contatti, beh, facilissimo, basta andare su Facebook o scrivere sopra CRM Happy Radio e entrate, così entrerete anche voi a far parte della nostra grande famiglia. Cliccate mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Vediamo un po' se riusciamo a raggiungere il numero 6000. Sì, ce la faremo. Dai, dai, ce la possiamo fare. Quindi così anche voi, qualcuno di voi potrà essere ospitato all'interno quindi di CRM più Radio, magari chissà all'interno di Semplicemente Insieme, vedremo, no? Ma sì, allora diciamo possiamo partire, sono già le 15:18, quindi direi di partire subito con la grande musica. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like abbiamo cominciato proprio alla grande con la bella musica, sempre qui in diretta, rigorosamente in diretta. che temporale, un giorno da raffreddore, dove sei? Io sono ancora ad aspettarti. Con un anestetico artificiale faccio finta di non sentire, fino a che mi addormento non resta più niente. La gente torna da lavorare, si fa compagnia col televisore, e a tuo modo la mia compagnia sei tu. Quanto mi capita di sbagliare, sempre vicina all'imperfezione, quanto mi manchi, quanto mi manchi. Non credevo di starci male, maledetto quel giorno al mare, che ti ho visto passare, guardarmi il destino un attimo ci ha fregati. Impossibile da trattenere, come il mare dentro un bicchiere, irruente passione per cui in un istante è sbocciato un eterno amore. Festeggiare, dove sei? Che passo il tempo ad immaginarti. È una parentesi estemporanea, faccio finta di non capire, fino a che mi accontento non sento più niente. La gente stanca di lavorare si mette allegria col televisore, e a tuo modo la mia allegria sei tu. Quanto mi capita di sbagliare, sempre vicino all'imperfezione, quanto mi manchi, quanto mi manchi. Non credevo di starci male, maledetto quel giorno al mare, che ti ho visto passare, guardarmi il destino in un attimo ci ha fregati. Impossibile da trattenere, come il mare dentro un bicchiere, di ruente passione per cui in un istante è sbocciato un eterno amore. Il destino in un attimo ci ha fregati. Impossibile da trattenere, come il mare dentro un bicchiere, l'irruente passione per cui un istante è sbocciato un eterno amore. Ma di eterno non aveva niente il nostro amore. Beh, la grande Emma ritorna alla rinascita dopo un momento difficile, sempre più forte di prima. Emma ha presentato ai fan con un messaggio su Facebook il nuovo singolo Amami. È stata la cosa più naturale del mondo, scrive, ho buttato fuori quello che da tempo covavo dentro, quindi una canzone. È nata quindi Amami. È rinata Emma, un nuovo progetto, una nuova avventura, un nuovo modo tutto per noi. Il nuovo album dal titolo Top Secret uscirà ad aprile. Quindi avremo ancora un po' di tempo, dai, ci siamo quasi per ascoltare questo comunque nuovo singolo di Emma. Fare un passo avanti è una condizione naturale, evolversi, rinnovarsi, provare, credere fino in fondo in un'idea, superare le paure, i pregiudizi, superare l'idea che si ha di se stessa, racconta appunto la cantante. È accaduto di notte, in una di quelle dove praticamente dormire sembra una punizione, mi giravo e rigiravo nel letto, sudavo freddo, poi dice sudavo parole. Ho acceso la luce. E poi si è accesa fino a veramente la luce. La mia chitarra ha fatto il resto, suonavo il basso, cantare è fondamentale, ma alle 3 di notte, dice la cantante, lo sfratto arriva facile. E poi conclude, volevo appunto dirvelo personalmente perché credo nei rapporti diretti e vi presento quindi il mio primo singolo, Amami. Musica e testo di Emma. Quindi aspetteremo l'uscita di questo nuovo album, che è appunto questo nuovo singolo, e dice che appunto uscirà il 22 marzo e ho voluto che avesse una copertina a parte solo per lui. È un piccolo frammento per me, dice, un pezzo di cuore. Quindi speriamo che e di ascoltarlo presto, quindi 22 marzo, quindi sicuramente sarà un altro grande successo, perché come tutti i successi naturalmente di questa straordinaria artista, che tra l'altro ricordiamo è uscita da un talent show appunto di Amici di Maria De Filippi. Ne sono usciti parecchi artisti, cantanti bravi da questo talent che sforna, proprio li sforna. Bene, bene, bene, bene, siete sempre insieme a me, insieme a Gioia. Vi ricordo che tra un pochino avrò all'interno di Semplicemente Insieme, intervisterò un rapper cefaludese, quindi con molto piacere Matteo Bracco, quindi non vedo l'ora di intervistarlo, vediamo un po' qualche curiosità. Che ce l'ha richiesta sempre qui alla 335 56 37 251, e ancora vi ricordo lo 0921 92 32 92. Vi ricordo che potete seguirmi in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmhappyradio.it, oppure ancora sul nostro portale Facebook Happy Hour. Dicono che tutto sia comunque scritto, quindi tanto vale che non sudi. Nasci da incendiario, muori da pompiere, dicono. essere una star. Dicono che nasci solo per soffrire, ma se soffri bene vinci il premio di consolazione. Chi non salta l'eccezione. Ma sono quasi tutti quanti usati. Copriti per bene che non ti conviene il mondo qui. Sei già dentro l'happy hour. Vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? carissimo amico che in questo momento mi sta seguendo in macchina, in viaggio con la sua macchinina e quindi di ritorno. Quindi ciao Filippo, buon rientro a casa. E parliamo di Ligabue, proprio sì, proprio di lui. Dopo l'esperienza live nel maggio 2012, giovedì 4 e venerdì 5 aprile, Ligabue torna in concerto alla Royal Albert Hall di Londra per due date che si avviano a registrare il sold out. A fronte della grande quindi richiesta, infatti la Royal Albert Hall ha reso disponibili ulteriori posti, gli ultimi biglietti. Alla Royal Albert Hall Ligabue infatti si esibirà in uno spettacolo fortemente rock, essenziale nella scenografia e nelle luci, accompagnato sul palco dal suo gruppo. I biglietti per i concerti naturalmente sono in vendita sul circuito Ticket One e sul circuito della Royal Albert Hall. Quindi questa grande, dopo quindi questa attesa di giovedì 4 e venerdì 5 aprile Ligabue quindi alla Royal Albert Hall di Londra, quindi per questo suo concerto. Io intanto vi ricordo ancora una volta l'appuntamento con l'intervista all'interno di Semplicemente Insieme con Matteo Barro. Poco fa ho detto Bracco, vabbè, si sbaglia un po', ho messo una letterina in più, pazienza. Quindi questo rapper cefaludese che parleremo un po' della sua esperienza, del suo canto, ci spiegherà un po' come funziona il rap. Devo dire che a me il rap non piace tanto, però ho ascoltato il suo singolo e devo dire che non è il solito rap, quello duro, proprio forte, che non... almeno che a me non piace. Il suo singolo mi piace, non lo dico così tanto perché magari si trova qua, no, assolutamente, perché è proprio così, è proprio, poi magari lo sentirete anche voi e mi darete conferma o meno di quello che sto dicendo. E noi nel frattempo continuiamo, andiamo avanti con la bella musica, sempre qui in diretta su CRM Happy Radio. When we first came here, we were cold and we were clear, with no

tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Keeping count on her hand, 1, 2, 3 days that I've been sleeping on my side. I finished kissing my dad, so now I head back up the steps, thinking about where I've been. I mean, the sun was never like this, so I wanna feel with the season. I guess it makes sense, 'cause my life's become as rapid as a night out in Los Angeles, and I just wanna stay in bed and hold you like I used to. You know that I am home. So darling, if you love me, would you let me know? Or sempre in compagnia di Jerry all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente sempre rigorosamente in diretta su CRM Happy Radio. Vi ricordo che tra pochissimo in studio con me ci sarà già, anzi è arrivato, il nostro carissimo Matteo Barro, il nostro rapper cefaludese, lo vedete già in web, in streaming, che sta salutando i suoi fan, che saranno tantissimi. Faremo una piccola intervista, ci racconterà un po' della sua passione per questo genere musicale, il rap. Vediamo un po'. Ci spiegherà anche un po' come funziona questo mondo. Io praticamente sono ignorante in materia, però lui mi deluciderà di tutto, giusto Matteo? Sì, lui intanto è là che ascolta, tranquillo. Dopo ci sentiamo. E allora io intanto al solito, no? Ho una bella notizia da darvi. Cioè io vado alla ricerca di notizie un po' così, un po' strane. E ne ho trovata una, devo dire, che è molto, molto strana. Praticamente un uomo fa causa alla moglie perché è brutta, cioè questa proprio, e ottiene un risarcimento di $120,000. Si tratta forse del caso di divorzio più strano degli ultimi tempi. Praticamente un uomo ha portato in tribunale la moglie accusandola di essere brutta, dico perché prima non se n'era accorta, no, e vincendo la causa, ottenendo il divorzio ed un risarcimento di circa $120,000. Quel che è successo praticamente è che Jiang Feng e sua moglie, residenti nel nord della Cina, e te pareva se le notizie non arrivavano sempre dalla Cina, hanno avuto una figlia che l'uomo non ha esitato a definire incredibilmente brutta. Apparentemente neanche l'amore paterno per la neonata era sufficiente a farla apparire bella agli occhi del padre e quindi di non somigliare minimamente a nessuno dei due genitori. L'uomo ha iniziato ad accusare la moglie, in apparenza una bella donna, di averlo tradito e alla fine la donna ha ammesso il suo segreto. Praticamente la donna non era sempre stata attraente, ma prima di conoscere il marito era decisamente brutta anche lei. Prima di incontrare quindi il marito ha fatto un lifting facciale e praticamente adesso è più carina, mentre l'aspetto praticamente cambiato in meglio, però la figlioletta assomiglia a quanto pare a mamma, che non è questa bellezza unica. Pazienza, c'è anche per quello, si va avanti con le cause di divorzio. Ahimè, queste notizie strane che come sempre vi do io, solo Jerry vi do queste notizie strane che arrivano dal mondo. Simone, non ridere, non incominciare, io sempre accanto a me l'amico mio, un regista il mio fonico, com'è che ti chiamano a te, fonico tecnico, che se la ride di brutto. Se la ride di brutto, dai Simone, per te metto una bellissima canzone che so che a te piace tantissimo. Arriva lui, Max Gazzè, con Sotto Casa. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crederei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò credere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria, lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta ancora a brodo e basta un solo farapurto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra, poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un culo. Sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento, oggi te la cavi sì, ma non finisce qui. poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un culo. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Ed eccomi tornati in studio, vi ricordo che siete sempre rigorosamente in diretta su CRM Happy Radio, sono le 16.08, sempre con Jerry. Poco fa vi avevo annunciato che come in studio ci sarebbe stato un ospite, un giovane rapper cefaludese, quindi vado a salutarlo e qui con me Matteo Barro. Buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, un po' di freddo fuori però. No, ma cosa dici? Quando mai? No, le temperature praticamente si sono abbassate di botto, questo tempo proprio non vuole migliorare assolutamente. Allora, siamo qui. Siamo qui, tranquillo, vero? Io sì, perfetto, sempre. Noi siamo tutti e due tranquilli. Ormai dalla regia vedo che se la scialano di brutto, sì. Perché alla fine qui dentro ce la passiamo bene. Sì, possiamo, noi stiamo benissimo, qua è la temperatura lamentare. Ideale. Allora, oggi parleremo appunto con te, Matteo, in arte, Matt, questo sì. È il suo nome d'arte, giusto? Matt, levi una A e levi una O. Giusto, giusto. E allora, Matteo, intanto quanti anni hai perché sei giovanissimo? Allora, io ho 20 anni. 20 anni, praticamente siamo coetanei io e Matteo. Sì, ti piacerebbe forse, lo so. Forse ho qualche anno in più io, però... Io sono, sì, io ne ho 18, però dai, va bene, va bene. Si vede. Si vede, ma che bravo Matteo, che gentile Matteo. Allora Matteo, raccontaci, adesso parleremo intanto di rap. Il rap praticamente significa, io mi sono informata cari amici, è un termine derivato dall'acronimo delle parole inglesi Rhythm and Poetry, quindi ritmo e poesia. Diciamo che è uno stile di vita sorto negli Stati Uniti verso la fine degli anni 60. Esatto. E il termine è stato inventato dal cantante Joe Tex. Vedi, mi sono preparata. Sì. Perché devo dire che il rap, come dicevo poco fa anche, non è uno stile che piace tanto a me. Perché io seguo un altro genere musicale, no? Sono, sì, gusti alla fine. Sì, sono dei gusti, però ti dirò che ascoltando il tuo singolo, che poi tra poco ascolteremo Non Siamo Noi, devo dire che mi piace perché non è, come dicevo poco fa, un rap duro di quelli proprio che non si può... più morbido. Sì, un po' più hip hop, R&B... Più cantato, bello. Tra l'altro l'hai girato a Cefalupo, comunque di questo ne parleremo subito dopo. Allora, raccontiamo un po' ai nostri amici, che anche a me che sto curiosa di saperlo, come nasce la passione per la musica? Allora, onestamente mi sono buttato sulla musica a scrivere, diciamo a farla io la musica, avevo super giù 14 anni, è stato il primo anno delle superiori, però già ho iniziato ad ascoltare tanto rap all'età di 8 anni, che cioè da piccolissimo per caso, proprio. Sì, è stato per caso nel computer di mio fratello, giusto Eminem. Ah, ecco Eminem. E da lì una canzone, un album, il film, e poi diciamo tutta la cultura, perché poi come hai detto tu il rap non si sofferma solamente al genere musicale, a un ritmo, è proprio uno stile di vita. Sì, esatto. Tutto. Capito, sembra facile, no? Io ogni volta dico, sembra facile mettersi lì a dire due parole, stare attenta al ritmo ed ecco che nasce una canzone, ma in realtà non è così, vero Matteo? Sì, quindi come funziona questo? Allora, innanzitutto, secondo me è tutta una questione di vocabolario, devi sapere tante parole, leggere anche abbastanza e poi anche, diciamo... Non è facile, ad esempio mi è capitato molte volte di scrivere una canzone che di media dura 3 minuti, 4 minuti, in anche 20 di minuti. Ah, però... Dico sì, anche l'ispirazione può venire in qualsiasi momento, capita di notte, capita magari, non lo sai, adesso mi viene l'ispirazione, Sì, poi magari voglio, mi fai qualcosina, un'improvvisazione, magari... una piccola improvvisazione, anche se non sono tanto ferrato. Tranquillo, ma qua siamo in famiglia, siamo tra amici. Quindi quello che ti io viene... poi mi diverto, a me piace, lo faccio per passione, è proprio una passione che coltivo. Una passione che è nata con te praticamente, sì, diciamo con così me. Anche perché tra l'altro qui a Cefalù diciamo nessuno pratica il genere, anzi vorrei salutare un ragazzo, Vincenzo Stan, che uno dei pochi che fa anche, si è dedicato al genere molto, scrive anche lui. E niente, io quindi ho incominciato 14 anni con un ragazzo di finale. Sì. Avevamo una band, chiamiamola. Pure. Sì, avevamo una band, questo ragazzo produceva la musica, scrivevamo su, registravamo tutto sempre a casa, è sempre stata una cosa di home recording, come si dice in inglese. E quindi ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato, però non abbiamo mai fatto, diciamo, album, solo qualche singolo, qualche cosa. Ah, bene, bene. E poi io ho iniziato da, diciamo, solista. Mi sono dedicato un po' di più al genere. Poco fa mi dicevi che anche sei stato fuori, sei stato all'estero, sì, hai fatto qualcosina. Sì, io, diciamo, ho una grande passione per gli Stati Uniti, che comunque direi va. Anche perché io ascolto solo, non solo, però maggior parte il rap americano. Mm-hmm. Ho iniziato proprio ad ascoltare il rap americano e da quel giorno, diciamo che oggi ascolto solo il rap americano. Solo quello, ascolta solo quello. Sì, sì. Sì, sono stato in California, Los Angeles. Bene, la prossima volta che ci vai, ti prego, portami con te. Senz'altro, senz'altro. Sarebbe un piacere. Io poi, essendo piccolina, come dico sempre, mi vado ad infilare ovunque. Nella valigia ci o anche nello zainetto, così magari poi dentro l'aereo ti apro. No, lo zainetto, dai, nello esagerato. Vabbè, dai, non sei tanto ingombrante. Perfetto, perfetto. E allora, diciamo che, come dicevamo prima, c'è un cantante, anzi al quale tu ti ispiri, un rapper italiano o straniero, insomma, che ti piacerebbe, insomma, un giorno diventare come Tizio? Allora, bella domanda questa. niente, diciamo, la persona che anche mi ha ispirato a portarmi, diciamo, a dedicarmi a questo genere è stato Tupac, che è un cantante che Spiegami. È morto, sì. Così? Originario. Sono ignorante un po' in materia. Diciamo, sì, rappresentava la Los Angeles, la California. Ed era un rap come quello che non piace a te molto. Però comunque i significati erano, cioè parlava anche molto di politica, del fattore che c'è molta povertà, quindi comunque dei temi attuali insomma, sì, che anche nel sociale, insomma. Sì, anche se, diciamo, lui queste canzoni le ha fatte negli anni 90 ed è morto anche nel 97. Ah. Sì, per delle faide che avevano in America. Comunque è molto attuale anche oggi, adesso, a cose che succedono oggi. Vabbè, sì, paragonate, sì, sì, sì. Ed è stato lui, sì, infatti me lo sono anche tatuato nella schiena. Addirittura? Sì, sì, hai capito. Mi ha ispirato, diciamo, è stata una persona che mi ha ispirato tantissimo, anche comunque i miei amici mi ispirano sempre, è la mia vita, perché, diciamo, sì, il rap è una cosa che parli un po' di te stesso, sì, o esatto, comunque delle quello storie. Che vivi, quello, sì, che quello che ti circonda, comunque lo metti. Perfetto. Poi in... Ogni cosa è un'ispirazione, come ti dicevo prima, ogni cosa può nascere una canzone. Esatto, poi magari dopo, come dicevo prima, magari ci farà sentire qualcosina, sì, live. Sì, live. Sì. Adesso andiamo ad ascoltare il suo singolo, sì. Dopo? Quando dopo, Simone? Il primo brano? Andiamo ad ascoltare il brano? Andiamo ad ascoltare il brano, e poi di Million Ways. E Mille poi naturalmente modi. Ritorniamo in studio con il nostro Matt. Yeah, yeah, ma e questa è per questa. Sì, sì, lo sai chi lo sai, lo so che lo sai, lo sai. There's a million ways to say goodbye, but you can never know which is right. There's a million ways to say goodbye, but you can never know which is right. Mille sono i modi, lo sguardo attraverso i tuoi occhi. Mille sono i ricordi che adesso vanno nascosti. Ricordi di infanzia, meno male che c'eri. I sentimenti sono veri, quel che voglio è che mi credi. Mi credi, chiunque ti conosca ti crede complicata. Tu la mia regina tanto amata, che adesso se n'è andata. Ma io ti cerco come se fossi il tuo nemo in questo mare così nero. Ti sento ma non ti vedo. Sei la rugiada che bagna i miei capelli. I tuoi occhi sono così belli, colorati coi pastelli. Sei la rugiada che bagna i miei capelli. I tuoi occhi sono così belli, colorati coi pastelli. Say goodbye. There's a million ways to say never know which is right. E adesso che pensi, lascio che la pioggia mi attraversi. Mentre scrivo questi versi per te, un altro modo non c'è. E senza due non c'è tre. Il primo bacio, che passione, l'ho rubato a te. Dimmi come, quando e perché, se una ragione c'è, c'è. Io punto in alto e tra la folla scelgo te. Quando ti guardo basta uno sguardo e sai perché, perché a dire il vero un motivo non c'è, non c'è. Sei la rugiada che bagna i miei capelli, tuoi occhi son così belli, colorati coi pastelli. Sei la rugiada che bagna i miei capelli, tuoi occhi son così belli, colorati coi pastelli. Pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Ed eccoci nuovamente in studio, ancora con Matteo Barro, il nostro rapper cefaludese, orgogliosissima di intervistarti. Chissà, diventerà famosa e poi potrò dire: l'ho intervistato io. Ma io lo spero. Ah, te lo auguriamo di cuore, te lo auguriamo. Noi abbiamo ascoltato il brano poco fa, Million Ways. Allora, ci racconti un po' come è nato questo brano, se c'è qualcuno alla quale lo hai dedicato, una lei, magari per esempio una fidanzata, noi vogliamo saperlo se c'è, se non c'è. Parlaci un po' di questo brano, raccontaci un po' cosa, allora, cosa il brano vuoi dire. Million Ways è stato, l'ho scritto un anno fa, penso, sì, sia passato già un anno. Niente, per una ragazza che è sempre stata una mia amica, però io avevo nutrito qualche sentimento un po' più diverso dall'amicizia, sì, diverso, ecco, dall'amicizia. Dai. Ed è nata questa canzone, diciamo, parla un po' della nostra storia, che ci siamo conosciuti, eravamo praticamente all'asilo, eravamo piccolissimi, poi le nostre mamme sono pure molto amiche. Va bene, quindi proprio sì, c'è tutta sì, una... Sì, sì, sì, niente... Questa canzone è anche per dire Million Ways, appunto, sono, significa mille modi in inglese. Sì. E ci sono mille modi per dire comunque addio ad una persona, per salutarla, anche perché lei in quel periodo era andata all'università, tante cose. Quindi l'hai salutata, diciamo, così. Sì, ecco. È stata una dedica, una canzone dedicata a questa mia. Adesso sei fidanzato, vogliamo saperlo, lo facciamo sapere anche ai nostri amici che ci ascoltano, alle nostre ragazze che sono che ci seguono. Tranquillo, so, sei, sì, sì. C'è qualcuno che hai già adocchiato, sei sì. fidanzato con me? No, non sono fidanzato, no. Però. Ragazze, è libero. No, Matt, no, no, è libero? No, non è libero. No, non è libero. Libero tra virgolette, sì, al tra cuore, virgolette. Insomma. Sì, per ora. Anzi, saluto questa ragazza, la saluto. Che penso sia in ascolto, cioè stia ascoltando. Diciamo il nome o evitiamo di dirla? Lei lo sa, sì. Ma evitiamo. Evitiamo, comunque salutiamola lei. A Lucia, lei. Salutiamo a Lucia. Salutiamo dai. Lucia, ciao Lucia, bella acchiappo lui, è carino lui, lui è carino. Ma Matt, caro Matt. Dimmi. Abbiamo una sorpresina per te adesso. A quanto pare, dalla nostra regia mi segnalano che c'è una telefonata in diretta per te. Vediamo un po' chi è. Vediamo un po' chi è. Pronto? Pronto, Matt. Ciao. Pronto? Pronto? How are you, man? Cosa? Is this... English? do you speak English? Yeah. Oh. Yes, it's from Birmingham anyway. Oh, what's up, man? How you doing? Hi, man. Oh, my God. how you doing? Very nigga? Cool, man. You forget to me. No, I don't forget you, man. No, non ci sono dimenticati. Ci amano, dicono quello che ho capito, ti amano, perché poi tra ascoltarlo amici. Al telefono. Ai! No, sono italiano, sono Oh, mi hai fatto prendere un colpo, ho detto Dio, adesso devo tradurre. Ma che è? No, non ti preoccupare, sono Giovanni, un grande amico di Matteo. Ciao Giovanni, potevi venire in studio. Potevi venire. Potevamo venire, ecco, io sono impegnato. Mannaggia, se facevi in tempo. È un lavoratore. Ah, stai lavorando, altrimenti potevi raggiungerci in studio, magari, no? Sì, sì. Tutti qui semplicemente insieme appassionatamente. Esatto. Allora, Giovanni, come stai? A posto? Sei al lavoro? Sì, sono al bed and breakfast per il momento. Mannaggia, te tocca lavorare, che devi fare? Aspetta che mi sposto perché purtroppo qua il telefono mi prende e non mi prende. Ecco. Sì, sì, sì, no, abbiamo capito che si sente un po' male. Infatti pensavo veramente fosse un collegamento dall'America, un amico americano che ha sentito... No, no. Anche in America ci sentono, lo ricordiamo sul nostro sito www.crmhappyradio.it, quindi poteva pure essere, insomma, vera sta cosa. Certo. È stata una cosa inaspettata. Non ci siamo messi d'accordo. No, no, no, infatti ho visto che sei rimasto anche tu un po' così scioccato. Ti dico io come sono rimasta, perché mi toccava poi tradurre. Bella, Gio, bella. Ti stai divertendo. Sì. Dillo come ti trovi qua. Sono con Felice, siamo qui al B&B che ti abbiamo visto. Ho detto, ci facciamo una sorpresa e li chiamiamo. Ma ci stai vedendo anche streaming sullo sito? Sì, sì, sì. Allora ti salutiamo, io sono Jerry, ciao. Allora, niente, questo tempo... Cosa? Pronto? Questo tempo brutto. Sì. Ma noi mettiamo allegria, noi mettiamo allegria. Ma tu qui potevi venire, cioè, veramente sembra di essere a casa, bro. Dillo che sono brava, e una brava padrona di casa. E anche una bella ragazza. Grazie, adesso poi ti pago dopo. No. Sì, sì, vero. Dov'è di tu, no? Dico, dov'è? Ma che domande mi fanno questi qua? Giovanni, che domanda è? Gio. No, ricordati che sei in diretta. Siamo in diretta, ci stanno sentendo tutti. Ok, Giovanni, hai qualche altra cosa da dire? Niente, Matti, ci vediamo stasera per festeggiare questo grande evento. Invitati al Kenzia stasera. Al Kenzia, addirittura. Questo fa pubblicità. Paga Giovanni, tutti quelli in ascolto stasera. Vabbè, d'accordo, posso venire anch'io, mi auto invito. Certo, paga Giovanni, senz'altro. Ah, perfetto. Ok, Giovanni, ci vediamo più tardi. A dopo. Ok. Allora, un bacione a tutti e due. Grazie. Un bacione anche a te. Ciao Giovanni, grazie. Ciao, un bacio. Continuaci a seguire sempre, mi raccomando. Sempre. Bravo, ok, ciao. Bravissimo. Ciao. Oh mio Dio. Hai visto che bella sorpresa i tuoi amici in questo momento ci stanno guardando e ti hanno fatto questa bella sorpresa. Ancora. Cioè, un naturalmente li salutiamo anche noi, anch'io. E allora Matteo, abbiamo pronto l'altro brano, lo possiamo... che quello... Non è pronto? È pronto, sì. Possiamo mandarlo? Io qua mi faccio segni, gesti. Andiamo a gesti con il mio carissimo tecnico fonico. Lo mandiamo? Mandiamo allora il prossimo di Matteo, Non siamo noi, che devo dire è molto bello. Ma è Stone Production. Non importa la distanza, l'angoscia che ti strozza. Sei pronto per scappare ma la sorte è sempre stronza. Non concludi niente con la sbronza. Ritorna tutto uguale appena va via la botta. E non sai quanta rabbia, le promesse volano via come la sabbia. Per i politici il futuro è di andare a Zelig o scoparsene a fanculo. Sì, ora è pista che fa duro. Se non ti piace me ne fotto e anche tu fanculo. Impariamo dalla storia, fra. Solo questa erba mi consola, già. Dici di sì, ma poi non sai quello che resta. Dici di no, ma ti rimane sempre in testa. Quello che hai, si dice sia la minestra. Se non la vuoi, allora giù dalla finestra. Sia, comunque vada, nella vita non conta vestire Prada. Gioventù bruciata, gioventù ingannata, gioventù che si trova la strada spianata. C'è chi è in salita e non si gode la vita, c'è chi è in discesa e si fida alla chiesa. C'è chi gira il mondo e si gode ogni momento, c'è chi scrive un verso e poi lo mette a tempo. Quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi, noi non siamo noi. Quello che vuoi, non siamo noi. Voi siete avvoltoi, noi non siamo come voi. Voi, sì, voi. Sì, ma voi non sai quello che resta. Dici di no, ma ti rimane sempre in testa. Quello che hai, si dice sia la minestra. Se non la vuoi, allora giù dalla finestra. I'ma look up, everything is set up. I take a bath for we, everything in as a G. Me and my niggas rolling trees, sipping in the sea. And all this bitch wanna fuck with me. Yeah, and I know my job. You nigga look at me, cause I'm at the top, top. E non c'è modo di fermarmi voi, dilettanti. Adesso ditemi chi avanti. Quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi, noi non siamo noi. Quello che vuoi, non siamo noi. Voi siete avvoltoi, noi non siamo come voi. Dici di sì, ma voi non sai quello che resta. Dici di no, ma ti rimane sempre in testa. Quello che hai, si dice sia la minestra. Se non la vuoi, allora giù dalla finestra. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Ed eccoci ancora qua, sono in compagnia di Matteo Barro, in arte Matt, questo bravissimo rapper cefaludese che già insomma ha fatto qualcosina di bello. Abbiamo già ascoltato due brani e l'ultimo che abbiamo appena ascoltato è Non Siamo Noi, tra l'altro un video girato a Cefalù, quindi nella tua, nella nostra cittadina normanna, nelle nostre città. E anche tu, sai. Anche tu, sa? Sì, è girato. Sì, abbiamo qua il regista che, dopo, che si chiama, lo ricordiamo? Alessandro Savarese, molto. Intanto, buon pomeriggio a tutti. Grazie di avermi ospitato qua, soprattutto a Matt. Che... un piacere per noi avervi qui. Poi magari ne parleremo meglio. Senza. Matt, dimmi, parlaci un po' di questo brano, Non Siamo Noi. Come nasce? Allora, come è nato? Non Siamo Noi. Da premettere che questo qui è il singolo del mio futuro album che sto facendo in collaborazione con un ragazzo della Repubblica Ceca che è proprio lui che diciamo fa le basi, io poi ci scrivo su e diciamo registro il tutto. Niente, questa canzone è nata proprio già il titolo, diciamo Non Siamo Noi, non rende tanto l'idea, però Non Siamo Noi nel senso che diciamo molte volte ci capita che c'è qualcuno, no, che ti dice saresti meglio, diciamo, se diresti queste cose, oppure non lo so, ti indirizzano nella strada che non è la tua. Esatto. E quindi tu, diciamo, questa è una canzone di protesta, perché quello che le persone vogliono non è quello che noi vogliamo essere. Giusto. Quindi... tra l'altro stiamo vedendo anche il video, lo ricordo ai nostri amici che ci stanno guardando anche in diretta streaming sul nostro sito, che lo ricordiamo ancora una volta, che è www.crmpiradio.it. Yeah. Allora, abbiamo anche qui il nostro regista, il cameraman, che ha girato questo bel video, bello, a Cefalù, dicevamo, e anche a Tusa. Tusa, sì, la piramide che si vede nel video è proprio a Castel di Tusa, è questa una bella scultura di un noto scultore, Staccioli, vabbè. Comunque, ho pensato di prendere questi due luoghi anche a livello comunque grafico. Oh, potevate venire a Sant'Ambrogio pure. Mi faccio pubblicità perché io sono di Sant'Ambrogio, che sapete che è a pochissimi chilometri da Cefalù. Dico, la prossima volta, se vi dovesse capitare di girare, no? Sant'Ambrogio ha un panorama speciale e stupendo, mi faccio pure pubblicità. Beh, senz'altro, con molto piacere. Oh, mi raccomando. È un'idea. Com'è stato lavorare assieme tutte e due? Dai, bello, diteci. È stata una bella giornata. Ma guarda, sembrerà strano, ma tutte le riprese sono state fatte in un giorno. Ah, perché di solito invece si impiega più tempo per girare e tutto quanto. Diciamo, per il montaggio è passato ci vuole molto di più perché è una cosa un po' più tecnica, un po' più... Beh sì. Però diciamo le riprese in un giorno, abbiamo girato tutto il giorno, avevo i vestiti nel bauletto, mi ricordo. Quindi mi cambiavo, andavi a cambiare ogni volta. C'era un caldo perché era giugno. Quando è stato girato questo? A giugno, giugno. Sì, sì. E c'era veramente caldissimo. Sì, sì. Bello, bella immagine. Bravo. Grazie, bravo il regista. Grazie. Non mi ricordo il nome. Alessandro. Savarese, non ha pretese. Non ha pretese, mai. Siamo quasi noi arrivati alla fine della nostra piccola intervista. Volevo chiederti un'altra cosa. I tuoi genitori, cosa ne pensano di questo figlio che ha intrapreso questa strada che, devo dire, nella musica non è tanto facile, diciamocela pure. Sì, sì, no. Magari può sembrare facile perché dice, vabbè, alla fine sono un paio di parole in rima messe insieme. Non è facile, appunto, non come è diceva. Non è facile perché comunque, diciamo, io nelle mie canzoni, cerco di dare un messaggio, di far capire alla gente veramente in che realtà viviamo, diciamo, i problemi che abbiamo... noi adolescenti, diciamo, lo ero, adesso non sono più, però diciamo tutto quello che ci succede attorno, e magari alcune volte non perché siamo ignoranti o stupidi come magari ci dicono le persone un po' più grandi, ma il fatto è che siamo così giovani, abbiamo altre cose in testa, abbiamo giustamente generazioni diverse, sì, modi diversi di pensare, tutto, di vivere, sì, tutto è diverso, anche la cultura è diversa, cultura diversa. Sì, me ne rendo conto. E niente. E mamma e papà Mamma e papà, diciamo, contenti? Sì, sono contentissimi perché alla fine, diciamo, non per... Però, diciamo, sono un artista perché alla fine scrivo. Lo sei? Sì. Non è facile, non è loro di tutti. A loro non piace il genere perché, come dicevamo prima, sono di un'altra generazione, quindi generazioni diverse ci sono. A me non piace, non perché sono di un'altra generazione, voglio dire, no, sono così una tua. Anche gusti, anche dipende dai gusti. Esatto. Però comunque sono dei miei fan. Vabbè, ci mancherebbe, saranno molto orgogliosi sicuramente, sì, anzi, di te. Li saluto perché ci staranno ascoltando. Li salutiamo anche noi. Ciao mamma e papà di Matteo, ricordiamo i nomi anche così. Elisa e Salvatore. So che hai anche un fratello, lo salutiamo. Marco, ciao. È una ciao. Sorella Marta. Ah, bene, salutiamo tutta la famiglia allora. Barro. E anche la nonna e nonni e tutti quanti. Tutti, un bacione grande da parte di Matteo e naturalmente anche da parte nostra. Progetti per il futuro, Matt? Ma progetti per il futuro... Non lo so, con la musica, allora io diciamo lo faccio per passione, non lo faccio per un secondo fine o per uno scopo finale. Mi piace, è un passatempo anche, come ti dicevo prima che parlavamo fuori onda, l'ispirazione può venire in qualsiasi momento. Molte volte mi è capitato, te l'ho detto anche, mi sveglio la notte e scrivo una canzone, un pezzo, oppure... Si sveglia la notte, aspetta, devo appuntarmi due cosine. Sì, sì, capita, oppure, vabbè, sì. Sì, oppure magari, e poi succede, che cosa succede? Poi quando tu dici, devo scrivere un pezzo, magari domani ho una serata, devo scrivere un pezzo nuovo. Non va. Perché viene tutto di getto, quello sì, che senti qua lo butti fuori. Sì, esattamente. Ma un'altra cosa, la musica. Mm-hmm. La scrivi tu, la scegli, come sei anche un musicista oppure no? Allora, no, non sono un musicista, non ho studiato nessuno strumento, non sono nessuno strumento, però io mi dedico soltanto a scrivere i testi. Scrivi solo i testi. Tra l'altro, ad esempio, poco fa parlavo del mio album che non voglio dare date perché ancora non so quando lo finirò. ho fatto precedentemente un mixtape che in poche parole sono spiegaci bene. Sono delle basi di canzoni anche famose che tu scarichi da YouTube, quindi non hai diritti, non hai niente. A scopo, cioè, l'importante è che non ci guadagni. Beh, certo, direi. E poi le puoi usare tranquillamente. E questo mixtape, appunto, ho fatto questo mixtape che ricordiamo la canzone di prima, Million Ways, e altre canzoni che tra poco uscirà questo mixtape. Lo potrete scaricare tutti su internet, gratis, completamente. Beh. Poi vorrei ricordare una cosa agli ascoltatori. Dimmi, dici tutto. Andate su Facebook, gentilmente, a tutti i miei fan, a tutti quanti. Andate su CRM, digitate su Facebook, bravo. CRM, Happy Radio, bravo. Scritto con la A, radio. E bravo. Mettete mi piace. Esatto. E dico, potete anche commentare o non lo so, fare qualche sì, fare qualche domanda, tutto qualche, quello che vi cosa. Pare. Poi ricordiamo, vediamo se riusciamo a raggiungere il numero 6.000 fan, quindi perché già ne siamo a 5.000 e ci passa. Riusciremo. E il nostro fan lunedì prossimo, il numero 5.000, appunto sarà in studio qui con me Giuseppe all'interno di Semplicemente Insieme, quindi sarà passerà il pomeriggio insieme ma a noi, fortunato. Quindi vediamo se che riusciamo fortunato. Ad arrivare al numero 6.000. Ce la faremo? Ma chissà. Ci vuole. Sì, ma sì, ce la faremo. E ricordo, signor Barro, che l'aspetto che dobbiamo finire il secondo video che, ecco, che ancora è in costruzione. È in corso. Bravo, lavoro sì. In corso, work in progress. E questo sarà un altro singolo del mixtape che adesso stiamo ci state lavorando video, su sì. Praticamente. Questa volta a posta di un giorno ci metteremo un po' di più perché sarà una cosa un po' più vabbè, dai. L'importante è poi che il risultato sia quello giusto, speriamo, quello ottimo. Speriamo. Matt, vediamo, ci fai sentire qualcosa live? Ma live, ti posso fare... Dai, vediamo cosa ti ispiriamo noi. Un piccolo jingle ti dai, faccio. Dai, sentiamo cosa esce. Stai attento, eh? Dai, vediamo. Il mio nome c'è all'interno... No, vediamo, ora vediamo. Vediamo se ti esce qualcosa subito fuori. Ok, a cappella, facciamo una cosa a cappella. Vai. Ok, sono qui su CRM Happy Radio, io me la pompo sempre nello stereo, qui con Jerry, da oggi in poi lo sai, sarai sempre nei miei pensieri, un saluto a tutti quanti, semplicemente insieme, adesso donne state tranquilli perché Matt vi vuole bene. Ma che bello! Grazie. È bravo. Una piccola cosa. È bravo Matt. Bene Matt, grazie. Io ti ringrazio ancora una volta per essere stati con me, per essere stati con noi nella nostra grande famiglia di CRMP Radio. Speriamo di averti presto, insomma, ancora una volta in studio. Magari allora, appena finite questo nuovo progetto ne parleremo ancora una volta. Così ti facciamo pure una bella pubblicità. Speriamo che ti porti bene il mio programma Semplicemente Insieme, sì, la nostra giustamente emittente radiofonica adesso, CRM che... Adesso mi sa che ti citerò in qualche canzone perché mi ha ispirato. L'ho ispirato. Oh, che bello, ho ispirato il nostro Matt. Mi ha ispirato. sono contenta, grazie. Comunque rimani con noi, comunque adesso parleremo con il nostro amico Alessandro, ho detto bene? Sì. Sì. No, sì, perché sì. A nomi cioè io me li ricordiamo benissimo. Un appuntamento questa sera alle ore 21 e poi magari ne parleremo subito dopo perché adesso diamo un po' di spazio alla musica in certo, effetti. No. Ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 21 con il nostro programma Rock Revolution con Filippo e Simone, ma poi continueremo a darvi un'altra chicca, un'altra notizia riguardante questa sera. You're a knife, sharp and deadly, and it's me that you've cut into, but I don't mind, in fact I like it. Though I'm terrified, I'm turned on but scared of you. She's a monster. She's a monster. Beautiful monster. playing with my mind. And I don't mind, I don't mind. No, I don't mind, I don't mind. Ed eccomi qua, io sto facendo due balletti qua con Matt, l'altro è il simpaticissimo Alessandro, perché giustamente la musica ce lo permette, quindi ci muoviamo a suon di musica. Simone, alla faccia tua, lui ha fatto la canzoncina su di me, a te non manco t'ha menzionato. Cioè proprio, ecco, lui adesso giustamente si vendica innescando qua il tutto. Allora, ricordiamo l'appuntamento di questa sera, intanto sempre in diretta su CRM Happy Radio con Rock Revolution, con Simone, con Filippo e Simone. Diciamo prima Filippo perché Simone alla fine è scherzo, naturalmente anche lui è essenziale. E poi un appuntamento questa sera a partire dalle ore 23, ce lo ricorda il nostro amico Alessandro. Ebbene, bene, bene. Questa sera alle ore 23 ci sarà una bella serata musicale. Una serata al Carré Lounge di Cefalù, dove ci sarà una serata elettronica music, una notte molto speciale che al Carré Lounge, un evento dedicato comunque alla ricerca della musica tra i generi dub, tribal, elettronica, con in sintesi eclettica. Comunque, sarà una serata molto di originalità, creatività, estro, in pratica arricchendo comunque il DJ set con la proposta di musica inedita e di ritmi vibranti e coinvolgenti che spaziano dalla musica dep passando alle sonorità triba ed electro music. Quindi ragazzi, noi vi aspettiamo numerosi stasera, visto esatto. Che anche che piove, quindi non c'è da stare tanto in giro, ci andiamo a rinchiudere tutti dentro al Carré Lounge per ascoltare della buona musica e niente, vi aspettiamo numerosi e soprattutto andate su Facebook. Bravo, ricordo, sulla pagina Facebook di CRM Happy Radio e mettete mi piace nel linketto dell'evento di questa sera che appunto è eclettica. Bravo, bravo. Adesso poi ti paghiamo subito dopo. No, adesso ancora continuiamo noi con la bella musica. Arrivano loro, i grandi, bella. Mi piacciono poi tantissimo. A voi piacciono i Negramaro? Sì, sì, sì. È un gran gruppo, devo Matt, dire. Excuse me. Bravi. Bei testi. Sì, sono straordinari. Veramente. Sì, bei testi. E poi naturalmente ritorniamo in studio, sempre qui in diretta su CRM Più Radio, all'interno di Semplicemente Insieme. Oggi con me, Matt, e il nostro Alessandro. A dopo. Ciao. Vuoi parlarmi di quando avevi un'altra faccia, andavi verso lei e non pensavi che da quell'attimo saresti stato quel che sei. Tu sei, non sei più quel che eri un tempo e ora sei quel che c'è di diverso da me. Pensare a quanto tradirono tutti quei baci che tolsero via dalle bocche le frasi che avremmo voluto gridare per convincerci che di amarci noi non ne saremmo mai stati capaci. Allora tu spiegami dei nostri baci il senso e se un senso lo trovi. Dimmi almeno qual è, dimmi se c'è. Ehi, vuoi ascoltarmi? Ho ancora altre facce da indossare, tu chi sei? Mi assomigli? Tra quelle che ho cucito e non ricordo più chi sei. Tu sei, non sei più quel che eri un tempo e ora sei quel che c'è rapirono tutti i pensieri, quei baci bugiardi sembravano veri e intanto impedivano a noi di convincerci che non avremmo mai visto la fine di tutti quei baci, perché senza fine li avremmo rubati di questo che tu ora mi dai. L'inizio qual è? Sei quello che vedo, sei un riflesso che non appartiene, non mi riconosco, tu specchio sai dirmi almeno chi sei, quello che vedo sei, sulla bocca sapore i tuoi baci, negli occhi rivedo i tuoi occhi, capisco finalmente chi sei, e pensare che quando tradito da tutti quei baci non mi resi conto di quanto restassi negli occhi, sul viso, nell'aria c'è una parte di te. E ho capito che se mi rifletto guardandomi il viso non mi riconosco, ma poi un bel sorriso mi taglia la fascia e mi dico sono identico a te. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Appunto, semplicemente insieme, oggi insieme a Matt, insieme ad Alessandro. Poco fa noi, mentre nei fuori onda, il nostro amico Alessandro, io non lo sapevo, ma oltre ad avere una bella voce radiofonica, devo dire, è anche bravo ad imitare. E noi vogliamo adesso farlo sentire anche ai nostri amici che ci ascoltano. Allora, abbiamo due personaggi che tu imiti benissimo, poi se non so se ce ne saranno altri. Cioè. No, è bravo, ve lo dico, ve lo garantisco, è bravo. Uno è Bruno Pizzolo, un cronista storico. Delle partite, che lui parlava un pochettino così. Comunque, benvenuti signori e signori qua su CRM Happy Radio. Sono molto contento di essere qua insieme ai nostri amici. Come mi chiamo? Ma, io, scusi. Lo sai che mi stavo pensando proprio in questo? Jerry, saluto a Jerry e alla regia. Vabbè, non lo nominiamo, Simone, poi, comunque, dai, che poi si offende. Che poi abbiamo un altro Bruno, che è Longhi, che lui ha una voce veramente particolare, cioè questa voce che è qualcosa di fenomenale, quindi... Un saluto spassionato da Bruno Longhi e Alessandro Savarese, dagli amici di CRM. Era così tanto per fare. È bravo, devo dire che sei bravo. A proposito di talento, visto che secondo me tu lo sei anche, ricordiamo un appuntamento, domenica 17 marzo 2013 dalle ore 9 alle ore 19 al Costa Verde, appunto ci sarà una selezione, verranno selezionati quindi dei talenti, riservata quindi a tutti coloro che pensano di avere un talento vero e proprio. Quindi è la vostra occasione per realizzare il vostro sogno, nessun costo da sostenere, nessun impegno, niente da perdere, insomma. Non vi resta che provare, pertanto vi aspettiamo quindi tutti all'Hotel Costa Verde domenica 17 marzo dalle ore 9 alle ore 19. Quindi anche te, Alessandro, sei invitato a partecipare. Ok, andrò. Matt no, perché ormai lui adesso è diventato famoso. Lui ormai è VIP, ormai c'è un VIP, quindi c'è il SUV qua parcheggiato con le ragazzine là che l'aspettano. Ha anche la sua pagina adesso tutta creata su Facebook, adesso tutti andremo a cliccare su Matt, grande Matt. Da premettere che dico, la pagina non è stata fatta da me. Ieri sera un mio amico mi ha detto: oh, ma se ti faccio la pagina, ne pensi? Ho detto falla. Andremo adesso a visitare la tua pagina, diventeremo tuoi fan. Oh, okay? Yes. E tu automaticamente vai a cliccare sulla mia pagina, su Jerry. Poi naturalmente su CRM P Radio, vi raccomando, su Facebook, così anche voi entrerete a far parte della nostra grande famiglia di CRM. Ci piace. Ci piace, a noi ci piace. Ci piace. Ci piace. A noi male. Abbiamo ancora qualche minutino oppure no? Andiamo spazio un po' alla musica naturalmente e poi ritorniamo in studio per i nostri saluti finali, giustamente. Che c'hai, Alessandro? Hai un tic? Che succede? Oggi un pomeriggio, devo dire, divertente. Veniteci a trovare spesso, mi raccomando, vi aspettiamo. Senz'altro. Grazie. when you're young, you hope to be menacing in vanity. 6 feet tall, maybe more, bigger now than before. This is it. Ed eccoci ancora qui, siamo ritornati in studio, siete sempre collegati su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, insieme appunto a Jerry e Matt e Alessandro. Siamo ormai giunti, siamo già ormai arrivati alla fine, quindi le battute finali del mio programma. Alessandro, vogliamo salutare qualcuno? Hai qualcuno da salutare? Io saluto tutte le persone che mi conoscono. Certo, chi non ti conosce c'è chi. Sì, chi? Vabbè, la mia famiglia. Saluto comunque anche CRM, che ci ha dato la possibilità quest'oggi di farci sentire. E Jerry. Jerry. Adesso lo caccio via. Mi scordo le cose. Sto scherzando. Comunque, importante è che tu saluti sempre me. Simone, no, non è importante. Insomma, lascialo lì. La regia la dobbiamo salutare. Ciao, Simo. Beh, mannaggia questo. Vabbè, ho capito che t'ha pagato. Matt. Cosa diciamo? Le ultime battute finali prima di chiudere? Ma niente, io pure volevo mandare un saluto a tutti i miei amici, diciamo tutti quelli che sono in ascolto, anche persone che non conosco, e li invito a, anche se non piace, ascoltatelo il rap, perché dà dei messaggi veramente... Sì, lo consiglio. Dà dei messaggi molto forti e attuali. Ricordiamo anche che mette in giro un po' per le, fa anche un po' di serate. Sì, anzi, se volevo salutare anche tantissimo la Villa Bar, che... diciamo mi dà l'opportunità di organizzare delle serate lì il venerdì sera. Non sempre, però salutiamo anche noi, salutiamo quindi la Villa Bar che Villa forse Bar è anche in ascolto. Un ciao, saluto Villa. A tutti. bene, allora abbiamo finito, hai qualcos'altro da dire, Matt, prima di chiudere? Ma no, semplicemente ciao. Insieme un saluto da tutti. Ah, grazie a CRM che mi ha dato questa opportunità di anche a Jerry. Jerry proprio è al primo posto, della piramide lei è la punta. Poi c'è Simone che però sostiene la piramide. Questo Simone è sempre in mezzo, ma come devo fare? Non terrà che chiusi, mannaggia. Hai qualcosa da fare live? Ma al momento non mi viene niente. Ti viene niente? No. Però quello di prima mi è piaciuto. Meno male che l'abbiamo registrato, così poi me lo vado a riascoltare. Alla faccia di Simone. Allora, vi prometto che farò un jingle per CRMP Radio. Bene, grazie, Faccio Matt. Rap. Perfetto, quindi lo aspettiamo con ansia. Allora, sono le 17.04, ahimè devo chiudere, dobbiamo chiudere. Vi ricordo l'appuntamento insieme a me, naturalmente lunedì, che tra l'altro vi ricordo ancora, ci sarà con noi il nostro fan numero 5000, appunto chi ha cliccato, bravo, quindi continuate a farlo anche voi. Vi do l'appuntamento questa sera con le ore 21 con Rock Revolution con Filippo e Simone, e poi a partire dalle 23 al Carré Lounge con la serata eclettica. Quindi non mancate, non perdete questi appuntamenti subito, quindi buon proseguimento con i programmi di CRM, vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend a tutti, e come dico sempre io, fate i bravi. Ciao ciao, ciao baci, ragazzi. Ciao nonna.